Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di uno degli scrittori spagnoli più amati in Italia, Ildefonso Falcones. Lui è un avvocato spagnolo di Barcellona che qualche anno fa ha iniziato a scrivere romanzi, soprattutto romanzi storici, di grande successo. Il suo primo romanzo, La cattedrale del mare, poi ha scritto La mano di Fatima. Ora è in libreria con La regina scalza, pubblicato sempre da Longanesi. Anche in questo caso un romanzo ambientato nel passato. Siamo a metà del 1700, le protagoniste sono due donne, un'ex schiava e un'altra donna che si incontrano, vivono a Siviglia e c'è una storia di grande amicizia. Ma sentiamo da Falcones chi sono queste due protagoniste. Caridad y Milagro son dos mujeres que se unen. Caridad e Milagros sono due donne unite, oltre che da un'amicizia profondissima, dalla musica, che è un po' il filo conduttore del romanzo e delle loro vite. Caridad è portatrice della musica degli schiavi neri, una musica molto etnica, una musica che è un canto alla fertilità e alla natura. Caridad approda in Spagna da schiava liberta, ha appena conquistato la sua libertà grazie alla morte del suo padrone nella traversata da Cuba alla Spagna. E l'altra protagonista è Milagros, una giovane gitana, vivace, allegra, gioiosa, estroversa, ma anche capricciosa. Abbiamo così la fusione di queste due musiche, quella dei gitani e quella degli schiavi neri che insieme portano alla nascita del flamenco. Nel corso del romanzo assisteremo a due situazioni opposte. Caridad arriva ancora schiava e progressivamente evolve, cresce, interiorizza la sua libertà e impara a gestirla e a utilizzarla a suo favore. Contrariamente, Milagros, che è nata libera, progressivamente va perdendo la sua libertà rispetto ai suoi 15 anni, quando era una magnifica cantante. Io credo che ci sia un contrasto nella vita di queste due donne. Questo è sicuramente un romanzo sulla libertà, come abbiamo appunto detto, ma è anche un grande romanzo di amicizia, di un'amicizia fra donne. Infatti le due protagoniste, anche dopo l'editto del 1749, quando i gitani vengono, diciamo, messi al bando, mantengono stretta la loro amicizia, si ritrovano poi a Madrid, quindi è un sentimento forte quello che le lega. Sì, realmente io credo che sia un canto alla libertà, evidentemente, no? Sì, indubbiamente è un canto alla libertà. E non a caso una delle due protagoniste è una donna che arriva quasi ancora schiava in Spagna, ma è soprattutto un canto all'amicizia. Dapprima è Milagros che aiuta Caridad, e poi è Caridad che aiuta Milagros, ed entrambe lottano per la libertà, lottano per avere qualche diritto in più per sopravvivere e per andare avanti. Per cui credo che una delle colonne portanti del romanzo, a parte la libertà, sia proprio l'amicizia. Della libertà, dello spilares, es el de la amistad. Nei suoi romanzi, La cattedrale del mare, La mano di Fatima, si indaga sempre la storia, si illumina sempre un periodo storico, soprattutto dove ci sono state intolleranze, persecuzioni, in questo caso nei confronti dei gitani. Perché? Bueno, primero porque son situazioni che sono interessanti da relatare. Beh, in primo luogo perché sono situazioni che sono interessanti da raccontare, da far conoscere al pubblico. Credo che sia attraverso gli umili, attraverso coloro che vengono trattati ingiustamente, soprattutto attraverso la storia delle donne coraggiose, che si possono conoscere alcuni meandri della storia, alcuni aspetti meno conosciuti della grande storia. Fra i miei, il romanzo che ha dato maggior rilievo a un'ingiustizia è il secondo, La mano di Fatima, dove effettivamente la persecuzione, l'esplosione dei musulmani, è il tema centrale del romanzo. Nella cattedrale del mare si parla dell'attacco al quartiere ebraico, che però fa da corollario al filo narrativo del romanzo. E qui, in La regina scalza, il tentativo di sterminio, che in parte va a buon fine dei gitani, è anche in questo caso una deviazione rispetto alla narrazione principale. In ogni caso, ho scelto il XVIII secolo proprio perché è in questo secolo che i gitani subiscono questa persecuzione, questa ingiustizia. E penso che sia sempre importante far conoscere questi episodi della storia. È un altro episodio della storia spagnola poco conosciuto al grande pubblico, ma non vi è alcun dubbio, per quanto mi riguarda, che il tema portante del romanzo siano la musica, l'amicizia tra queste due donne, la ricerca della libertà, l'anelo alla libertà, e lo spirito libero del popolo gitano. Ese spirito libre constante. A proposito di musica e di flamenco, in esergo dell'edizione italiana, ma immagino anche di quella spagnola, lei riporta questo scritto: ed essere flamenco è così, è avere carne, cuore, passioni, pelle, istinti e desideri diversi, è un vedere il mondo diverso, con i sensi allerta. E poi prosegue. Che importanza ha il flamenco e la storia del flamenco per uno spagnolo come lei, che poi ha deciso di dedicare, insomma, un libro anche alle origini di questa musica? Nella mia storia personale, diciamo che una delle mie grandi passioni sono i cavalli, e il flamenco è legato alle manifestazioni con i cavalli, è legato ai tori, alla corrida, all'arte. Il flamenco è una manifestazione di gioia, ma nella mia vita ha avuto un'importanza relativa. Ho conosciuto persone che sono invece pienamente coinvolte nel mondo del flamenco, ma ne hanno fatto una professione o un modo di vita. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di ascoltare bellissimi concerti di flamenco, come ho ascoltato bellissime musiche di altri compositori dei generi più diversi, dal classico ai Beatles. Il flamenco dà una serenità di spirito meravigliosa. Nei suoi romanzi e anche nella Regina Scalza, la storia con la S maiuscola viene raccontata attraverso le storie delle persone, soprattutto persone del popolo. Perché sceglie come protagonisti dei suoi romanzi appunto persone che vengono dal popolo? Perché io credo che sia così come si può contare meglio. Perché penso che questo sia il modo migliore di raccontare la storia. Io non ho la pretesa di raccontare le grandi conquiste, la grande epica storica, le imprese dei condottieri, da Giulio Cesare ad Alessandro Magno a Churchill. Voglio piuttosto trasportare il lettore in un'epoca diversa, in un luogo diverso. Voglio raccontargli una storia che lo interessi, e questa storia deve essere inserita in un contesto storico ben preciso. Quello che mi propongo di fare è trasportare il lettore nelle strade della città antica che racconto, non nel grande palazzo dell'imperatore o del re. Voglio fargli vedere com'erano i negozi, cosa voleva dire comprare roba di seconda mano di gente che era morta. Fargli vedere com'erano le osterie, le taverne dell'epoca, dove la gente normale andava, considerando che la stragrande maggioranza dei lettori sono persone normali. Credo che è con le storie delle persone umili, delle persone normali, che possiamo riflettere al meglio queste situazioni. Difficilmente, se parlassi per esempio di Napoleone, potrei parlare di negozi o di abbigliamento usato. E poi c'è un altro aspetto di cui tener conto. Quando parlo dei cittadini normali, degli umili, ho molta più mano libera, più margine narrativo, posso sbizzarrirmi di più. Cosa che difficilmente potrei fare parlando di un personaggio storico, noto a tutti, con il quale avrei un campo d'azione molto più ristretto. Credo inoltre che questi personaggi creati da zero siano più tuoi come autore. Queste due situazioni, io credo che a me perlomeno sono le che mi gustano. A proposito di storia, ovviamente c'è molta storia vera nei suoi romanzi, anche in questa La Regina Scalza. In un'intervista lei ha detto che per lei la letteratura è un mezzo per imparare e per non dimenticare la storia. Quanto concede alla sua fantasia e quanto invece si attiene ai fatti realmente accaduti? No, in che medida me ciño alla storia? Nel 100%. Assolutamente tutto. Io credo che. In che misura rispetto alla storia con la S maiuscola? Direi al 100%. Qui non parlo da scrittore, ma da lettore. Non è pensabile che una persona poi vada a consultare un'enciclopedia per vedere se quella cosa è stata davvero così o meno. Quindi, ovviamente, ci possono essere degli errori che non sono intenzionali. Ma il mio punto di vista, la mia filosofia, è che la storia è una, e che invece le trame sono infinite. Quindi se a un certo punto c'è un'incoerenza, c'è un conflitto di interessi tra la storia con la S maiuscola e la mia trama, quella che deve cambiare è ovviamente la trama. In nessun caso può essere cambiata la storia monografica. Quindi credo che tutto quello che è raccontato in termini storici nei miei romanzi corrisponde a verità. Ripeto, ci possono essere degli errori, Ci possono essere delle interpretazioni leggermente erronee, ma è anche vero che alla fine di ogni romanzo metto sempre una nota dell'autore in cui spiego queste circostanze. También acostumbro al final della novela a poner una nota dell'autore donde intento aclarar todas las cosas, más o menos las importantes que suceden a lo largo del libro. Lei con i suoi 3 romanzi storici ha venduto 7 milioni di copie, un successo grandissimo in tutto il mondo e in Italia in particolar modo. Secondo lei, anche probabilmente dalle lettere che riceve, dai lettori, dagli incontri, che cos'è che al lettore piace dei suoi romanzi? Io credo che lo che más gusta a los lectores es que sucedan cosas. Io credo che quello che piace più ai lettori è che succedono cose. Il ritmo è incalzante. Io sono per una lettura agile, un linguaggio accessibile. Non mi piacciono gli autori che per sedurre i lettori fanno sfoggio della propria cultura o del proprio magnifico stile narrativo. Credo sia necessario essere il più semplici possibile e cercare di trasmettere la trama in modo lineare, facendo sì che quasi a ogni pagina accada qualcosa. Perché dobbiamo partire da un presupposto. Oggi leggere è un impegno. Abbiamo vite frenetiche. Leggere significa togliere un'ora, mezz'ora al giorno ad altre attività, come il lavoro o il sonno. E quindi penso sia giusto che quell'ora sia spesa bene, in modo piacevole. Se dopo 40 pagine non è successo nulla, il lettore non è soddisfatto. La mia intenzione è intrattenere il lettore, divertirlo. Non pretendo altre cose. Procurar che il lettore si intrattenga, che il lettore si divierta. Io non pretendo altra cosa. E questo era Edelfonso Falcone, ora in libreria con La regina scalza, pubblicato da Longanesi. Veniamo ora a un altro libro di una scrittrice straniera, un libro che parla di libri, ma anche un giallo, una grande avventura e una storia d'amore. Si intitola La misura della felicità, scritto da Gabrielle Zevin, pubblicato in Italia da Editrice Nord. È la storia di un libraio vedovo che una sera trova una bambina abbandonata nella sua libreria. Sarà lei a fargli riscoprire l'amore per la letteratura. Attorno alla strana coppia ruota un universo di personaggi e colpi di scena. C'è uno scrittore donnaiolo, un generoso commissario di polizia e una rappresentante con un pessimo gusto nel vestire, per non parlare poi del furto di una preziosa edizione di Edgar Allan Poe. Lucia Maffei ha incontrato Gabrielle Zevin e gli ha chiesto innanzitutto come è nata l'idea del romanzo. Tutti i miei libri cominciano con una domanda. Nel caso della misura della felicità, le domande sono state 2. La prima è perché le librerie sono importanti? E la seconda, in che modo le storie contenute nei libri definiscono la nostra vita? È in risposta a queste 2 domande che il libro è nato. This book started from. Come ti è venuto in mente il personaggio del libraio? Ho pubblicato il mio primo libro 10 anni fa, così ho un decennio di esperienza nel campo dell'editoria. Conosco i librai, conosco gli editori. Negli anni mi sono accorta che questa gente di libri, da un lato non è molto motivata a far soldi, dall'altro ci riesce attraverso i propri gusti letterari. Questi 2 aspetti si mescolano e formano degli individui molto particolari. Ho cercato di scrivere su questo particolare tipo di personaggio. Al centro del romanzo c'è Island Book, che è l'unica libreria di Ellis Island. Entrambi sono luoghi immaginari. Così vorrei chiederti, dov'è la vera Ellis Island e qual è la tua libreria del cuore? For me, Ellis Island is probably equidistant between. Per me, Ellis Island è con ogni probabilità equidistante tra Nantucket e Martha's Vineyard, ma è fatta da tanti posti in cui ho vissuto fino ad ora. È un po' Key West, un po' Mystic Seaport. La mia libreria preferita è probabilmente Grolier Poetry Shop a Cambridge, in Massachusetts, perché adoro vivere in un mondo dove ci sono 700 metri quadrati dedicati interamente alla poesia. 700 square feet devoted entirely to poetry. Nel libro ci sono svariati colpi di scena. Avevi un'idea della trama fin dall'inizio o sono stati colpi di scena anche per te? Ho pensato a questo libro circa 8 anni prima di cominciare a scriverlo. Dopo aver scritto 8 libri, alle persone che mi chiedono che cosa è cambiato nella mia scrittura, rispondo che credo molto di più nel pensare prima di mettermi a scrivere. Ho pensato a questo libro davvero per molto tempo. Le sorprese per me quando scrivo ora sono molto piccole. Non si tratta di cose che non avrei mai immaginato. In sintesi, quindi, no, l'intreccio non mi ha mai sorpreso, perché il libro era stato attentamente pianificato prima della fase di scrittura. Hai mai pensato di scrivere sotto pseudonimo come l'autrice della Fioritura Tardiva, che è uno dei personaggi secondari del tuo romanzo? No, I have never considered using a pseudonym, although there are a lot of. No, non ho mai pensato di usare un nome d'arte, anche se ci sono molti svantaggi nel mio cognome, Zevin. Uno di questi è che inizia con la lettera Z, quindi i miei libri finiscono sempre nel ripiano più basso della libreria, il che non è proprio il massimo. In questo potrebbe aiutarmi il mio compagno, che si chiama Hans Canosa. Adottando il suo cognome, i miei libri sarebbero senz'altro meglio piazzati negli scaffali. Have a much more optimal shelf placement. Negli ultimi anni sono usciti molti libri che parlano di libri. Mi riferisco ad esempio a La libreria del buon romanzo di Cossé. Ritieni che La misura della felicità appartenga a questo filone? Sì, penso che appartenga a questo genere, vale a dire i libri che parlano di lettura. Va detto anche che forse è un processo naturale. Mi spiego, le librerie hanno subito dei brutti colpi ultimamente. Intendo che sono state scalzate e che hanno subito pesantemente la concorrenza della lettura online e di altre forme di intrattenimento. Penso quindi che sia naturale riflettere su cosa significhi davvero leggere in una cultura dove le distrazioni sono sempre più frequenti. A culture that increasingly has other distractions. Hai un e-reader? Yes. In the book, at one point, AJ's mother brings e-reading devices for the whole family. Sì, nel libro a un certo punto la madre del libraio regala un e-reader a ciascun componente della famiglia. È stata mia madre a comprarmi un e-reader un paio di Natali fa. Probabilmente non l'avrei comprato per conto mio. Noto che quando uso l'e-reader leggo molto più velocemente, ma tendo a dimenticare altrettanto velocemente. Sono ormai 2 mesi che porto avanti il tour promozionale della Misura della Felicità. E mi sono fatta una promessa, leggere solo libri di carta. Per ora non l'ho infranta. Va detto forse che il libro fisico, il libro di carta, ha più peso, letteralmente, di un ebook, anche in termini di importanza. È come se stessimo facendo una distinzione. Le cose importanti sulla carta, le cose effimere come il gossip sul digitale. Le cose importanti probabilmente richiedono la carta. Torniamo un momento a un passaggio del libro. Quando il libraio ritrova la voglia di vivere, improvvisamente nella sua libreria rifioriscono i gruppi di lettura. Hai mai fatto parte di un gruppo di lettura? Indeed, I have been part of a book club, many of them, and I've run a couple myself. In fact, ma certo, ho fatto parte di numerosi club di lettura e un paio di volte li ho mandati avanti io stessa. In uno di questi abbiamo letto La sovrana lettrice di Alan Bennett. Il tema del mio club letterario era i cocktail ispirati ai libri. L'unico problema è che non sono mai riuscita a trovare l'equilibrio perfetto fra la componente bere e la componente leggere, perché alla fine i partecipanti erano troppo ubriachi per discutere correttamente il libro. Nel libro c'è un personaggio che scopre l'amore per la lettura soltanto da adulto. Mi riferisco al commissario. Secondo te, lettori, si nasce o si diventa? I think people become readers, I do. Credo che le persone diventino lettori. Per me è stato così. Peraltro penso che questo personaggio, il commissario, sia l'elemento più fantastico del libro, proprio perché diventa un lettore in età adulta. È molto difficile, secondo me, diventare lettore in età adulta. Se invece un bambino riceve il libro giusto quando è molto piccolo, è molto probabile che resterà un lettore per tutta la vita. Ma come scrittrice sono anche ottimista. Chi pensa di non essere un lettore, a volte non ha ancora trovato il libro giusto. In questo quadro, in cui da bambini bisogna abituarsi alla lettura e da grandi bisogna ancora trovare il libro giusto, ci sono delle iniziative che possono essere prese per avvicinare le persone alla lettura? Yes, but I don't think children become readers by accident. Sì, ma non credo che i bambini diventino lettori per caso. La differenza fra un bambino che legge e uno che non lo fa è enorme. Sono stati anche fatti degli studi che confermano l'importanza di cominciare a leggere in tenera età. prima un bambino inizia a leggere, prima scopre che al mondo esistono persone che non conosce e luoghi diversi da quelli in cui vive. Questo lo aiuta a sviluppare ciò che gli psicologi chiamano empatia, una consapevolezza fondamentale per formare i cittadini del futuro o persone con le quali hai voglia di dividere la tua città. Quindi è molto importante che i bambini abbiano opportunità di lettura. Quanto alle iniziative che possono essere prese in questa direzione, è compito in primo luogo dei genitori. Padre e madre devono essere instancabili nel circondare i bambini di libri. Magari possono prendere l'iniziativa di spegnere tutti gli apparecchi elettronici, oppure di lasciarli accesi se questi ovviamente conducono a delle letture. Almeno in America è molto frequente che i ragazzini leggano cose legate ai film o tratte dai film. Va benissimo, si può iniziare con un certo tipo di letture ed eventualmente passare a testi più sofisticati più avanti. Credo possa succedere senz'altro. That's fine, because sometimes that means you start reading one kind of thing and then eventually you transition into more sophisticated kinds of literature. I think that can happen too. Chi ti ha fatto venire voglia di leggere? I would say probably more than anything my parents. Direi più di ogni altro i miei genitori. Mia madre, che è arrivata negli Stati Uniti dalla Corea quando aveva 10 anni, scherza sempre dicendo che ha imparato l'inglese grazie a libri come Jane Eyre. Avevo semplicemente dei genitori che pensavano che fosse importantissimo avere libri in casa e così hanno fatto. Per noi andare in biblioteca era come andare in chiesa, regolarmente, tutte le settimane. Penso che è per questo che sono una lettrice, perché i miei genitori mi hanno insegnato che i libri sono importanti. Lo stesso hanno fatto i miei nonni, che mi portavano dei libri ogni volta che venivano a trovarci. Lo stesso hanno fatto i miei insegnanti, che mi hanno suggerito delle letture aggiuntive rispetto a quelle che facevamo a scuola, perché avevano capito che mi piaceva leggere. Penso sia stata un'intera comunità di persone o cospiratori a rendermi una lettrice. E questo, in fondo, è anche il tema centrale del libro. Nei ringraziamenti finali scrivi che i gusti dell'ebraio non necessariamente coincidono con i tuoi. Chi sono i tuoi autori preferiti? Favorites are difficult, it's true. I preferiti sono sempre una domanda difficile. In questa fase della mia vita non ho dei preferiti, devo ammetterlo. Ma in qualunque momento penso che potrei leggere il mio prossimo libro preferito. A volte essere troppo devoti ai preferiti impedisce di scoprire nuovi scrittori. In passato, quando ero una ragazzina, mi piacevano molto i libri che riguardavano donne di grandi capacità e potenzialità. Per un certo periodo il mio libro preferito è stato La casa della gioia di Edith Wharton. Ho letto molto anche John Irving. Potrei riassumere dicendo che mi piacciono molto i libri con grossi sentimenti. Sempre quando ero più giovane, mi piacevano i romanzi molto arzigogolati nell'intreccio. Ma in questo periodo della mia vita non voglio leggere qualcosa che non abbia dei sentimenti, che non mi faccia provare qualcosa. Ciascuno dei 13 capitoli del romanzo si apre con la scheda di un racconto famoso. E, tra questi racconti, Roald Dahl è citato 2 volte. La prima volta con Cosciotto d'Agnello e la seconda con Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra. Qual è il tuo rapporto con Roald Dahl? Penso che saremmo andati d'accordo. Lui ha scritto dei libri che erano sia per adulti che per ragazzi e occasionalmente delle sceneggiature. Ho letto però che aveva una vita personale molto disordinata e complicata, proprio come il personaggio di Daniel Parrish nel mio libro. Un bel problema. Such things matter. Questa era Gabriel Zevin, ora in libreria con La misura della felicità, pubblicato da Editore Nord. Intervistata da Lucia Maffei. Devo dire che sono stata contenta di prestare la mia voce a Gabriel Zevin, anche perché sono d'accordo con la maggior parte delle sue risposte, con le cose che ha detto sui libri e sull'amore per i libri. Anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che d'estate il cacciatore di libri si moltiplica, perché va in onda il sabato alle 6:45 e poi come sempre alle 22, ma sempre il sabato alle 14 c'è l'appuntamento con Romanzi in valigia. La domenica invece alle 8:10 c'è un'edizione flash, un piccolo consiglio di lettura, e poi la domenica alle 14 la replica della puntata del sabato. Insomma, ce n'è veramente per tutti quest'anno. Grazie in regia a Pietro Lacorte, e come sempre vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Teddina, su Facebook e tutte le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura e una buona estate da Alessandra Tedesco.